from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Eccoci qua in leggero ritardo, ma iniziamo. Ora 21:41, questo è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per oggi, 25 marzo 2019, spazio che andrà avanti sino alle 23:15 circa. 06 491 750, contatto telefonico, sito internet www.ondarossa.info per usufruire anche del nostro streaming. Allora, qualche saluto. Il medico della peste qui da Roma, Maia dalla Sardegna, Sara in quel del Fiumicino, Fulvio Biondo di Solar Lodge, Sandra, Nicolo Loci dalla Sardegna. E quindi andiamo ad iniziare immediatamente. Andiamo ad iniziare facendolo e salutando anche Francesco Radius da Livorno, Enrico Cerrato da Asti. Lo facciamo con l'ennesimo passaggio riguardante Psycho Kinder. Questo è Tapes, un album del 2016 che abbiamo saccheggiato alquanto. E si conclude questa sera la nostra analisi di questo album con Il tramonto dell'evidente, che in realtà, come forse qualcuno si ricorderà, era anche una traccia dell'omonimo album precedente, il primo, qui però remixato da Carnera, altra vecchia conoscenza. L'album poi si conclude con Essere. ancora Psycho Kinder, e salutiamo anche Benedetta, credo una new entry qui a Disorder. Daniele Bogon, musicista che ascolteremo mercoledì prossimo in prova tecnica di trasmissione, e Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta. Smash. Era dunque Psycho Kinder. Intanto saluto Antonella dalla Sicilia, anche se lei ha problemi di streaming, cosa che non credo. Non credo sussista, gli altri mi sembrano tutti perfettamente collegati. Dicevo, The Psycho Kinder con Alessandro Camilletti dalle Marche, con questo Tapes, questo album del 2016. Cerco disperato. Un album intermedio, diciamo, di transizione verso i lidi più elettronici di questo artista. E in queste due tracce finali sono democratici, ma anche un po' fanatici. Già si fa l'occhietto a quelle sonorità più dark ambient che andranno a caratterizzare Diario Ermetico, album del 2018. Cartoline di vite non vissute, solo virtualmente la vostra stella brilla. Tra noiosi slogan e autocastrazioni crollano le mura di questa civiltà. L'inizio di Disorder di questa sera è prettamente italiano. Adesso andiamo a visitare un'etichetta scoperta da poco, la Occult Punk Gang, che ha anche un relativo profilo Bandcamp che consiglio, dove sono presenti dei gruppi molto interessanti provenienti soprattutto dall'area milanese. E questa sera facciamo la conoscenza con i Cerimonia Secreta, con la C, Cerimonia Secreta, gruppo di che, per chi se li ricorda, ricorda molto Le Vene di Lucrezia, un progetto molto molto bello di qualche anno fa, proveniente invece da Firenze. Quindi stiamo parlando di death rock, di post punk. L'album si chiama Da Sempre e cominciamo con ascoltare le prime tre tracce molto brevi, sparate, un approccio quasi punk, ma poi lo sviluppo delle atmosfere e anche i testi vanno altrove. Ci ascoltiamo Gerasim, Corpo di Gloria e Combattere.